anche ambiguo, è ambiguo, perché da quello che fa capire gli piace anche un trans. A me il trans proprio non esiste. A Cruciani piacciono i trans? Ma lui l'ha dichiarato, cioè che se dovesse capitare un trans non avrebbe problemi. Quando chiama quella turca, il turco, come si chiama? Efebal. Eccoci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Efebal. No, non ho detto gioia. Voglio chiarire bene la situazione riguardo l'emergenza del coronavirus. Non seguite messaggi non istituzionali che stanno girando di giorno in giorno con delle fake news che sono veramente ignobili. Non ci sono stati segnalati casi di sieropositivi qui in questa nostra cittadina. Dobbiamo stare tutti a casa. È l'unico modo per sconfiggere la diffusione di questo coronavirus. We are the fire in the attic. We are the voices in the static. You have a sickness. Ah, yeah! Dai, fammi vedere. Chi è che vi manda a fare le multe? Il sindaco? Al sindaco va? Ah, al sindaco vi manda a fare le multe? Quando dice a tutti di stare a casa, voi però vi manda in giro a fare le multe, eh? Ma vergogna, andate a casa! Senza mascherine, giusto? Cos'è, il sindaco vi manda? Bravi, eroica! Adesso è il sindaco! Votate Sala! Votate Sala! Votate Sala! Guardate come ci aiuta! Guarda come ci aiuta! Tu che lavoro stai facendo? Buttati! Buttati! Che fanno lavoro lo meglio! Votate Sala! Votate Sala! Vorrei esprimere tutto il mio disappunto riguardo al coronavirus. No, perché Roma è deserta, sembra che sia scoppata la bomba atomica. Lavatevi le mani col sapone, ogni secondo si sente. E il culo se lavamo col sapone, di mortacci vostra! Prima c'è stata avvelenata, ci avete avvelenato, c'è stata a far morire come le mosche, e mo se lavamo le mani col sapone. A Conte, di mortacci tua, d'sta gran fascia da cazzo, e quell'altro fascia da frocio Di Maio. Er virus, mo perché se sta a imparare a parlare inglese lo chiama er virus. Adesso da cazzo in Italia si chiama virus, che ci hai fatto entro a te e tutti quelli zozzi cinesi come te, li mortacci tu e de loro. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? In diretta dal bunker di Roma, perché oggi è nel bunker di Roma, David Parenzo, eccoci qui. Buonasera amici cari, in una giornata in cui purtroppo la Protezione Civile poco fa ha diramato i nuovi dati e come al solito tu ti sei rifugiato nel bunker. Positivi. Ti sei rifugiato nel bunker. 2249 nuovi positivi in Italia, superate le mille vittime. Io sono rimasto a casa, come da ordini del governo. Cerco di fare potevi la mia andare, parte, potevi sono andare nel anche ufficio alla radio, di casa. Potevi andare anche alla radio. Sono nel mio ufficio, si dice di muoversi il meno possibile, adesso se non funziona da domani andrò alla radio se questo collegamento non va, ma cerco di fare quello che il governo ci invita a fare per tutti noi, non no, perché no, in realtà tu al lavoro puoi andare, al lavoro potresti tranquillamente andare. No, è meglio non affollare le cose, le situazioni. Al lavoro puoi andare, infatti Gottardo è andato alla radio a lavorare tranquillamente, infatti, eccolo qua infatti, da Padova, applausi radio, anche a lui. La radio si fa in radio, io sono negli studi di Radio Caffè, perché se si sente di merda che servizio fai? cioè, inizia subito la polemica. Non ti convincono. Meglio che se stia zitto sto coglione. Ma no, povero coglione, dai. Non ti convincono, parla, non ti convincono i dati, certo, nemmeno quelli di parlo. Oggi, certo. Nemmeno quelli di oggi ti convincono, no, allora, i dati. No, a me sembra, allora, a me veramente, io lo consideravo una persona intelligente. Secondo me è veramente un imbecille. Va bene, ma lo show va benissimo, puoi fare lo show come al solito. Ok, allora io non sto facendo la stronzata di oggi. La stronzata di oggi. Non cominciate subito, non cominciate. Ti rendi ridicolo. Ho chiesto una cosa a Gottardo. Ho chiesto a Gottardo se i dati di oggi sono una persona che si rende ridicolo. Io, vabbè, l'hai detto, dai. Io a differenza tua sono andato su un posto di lavoro e sto lavorando. Non mi sono cagato addosso, sono stato a casa, che è anche un segnale del cazzo, tra le altre cose. E quindi adesso io ti rispondo. Ti rispondo. Beh, stare che a anche casa non è un segnale del cazzo, in teoria. In questo momento stare a casa non è un segnale del cazzo. Benissimo, ok. Un segnale del cazzo da un punto di vista radiofonico, si sente bene. Vabbè, dai, forza, vai avanti. Dai. Allora, in Veneto, dove sono aumentati i casi anche in Veneto, grazie a Dio, e io spero che continui così, l'aumento dell'occupazione delle terapie intensive è aumentato di sole 2 unità in più rispetto al giorno precedente. Quindi questa è una buona notizia, perché poi, tra le altre cose, mi spiegava un mio amico esperto che lavora nella ASL 1 di Padova in programmazione sanitaria. È possibile che aumentino il numero dei contagi, ma con coorti più giovani. Le coorti più giovani tendono ad ospedalizzarsi di meno. Quindi, ad esempio, un conto è se si contagiano. No, scusami, ma sono i dati questi qua. Vabbè, ma sei un povero imbecille. Allora, ragazzi, io sono rimasto a casa per rispetto di quello che ha detto il governo e per i miei familiari che non posso infettare. Brutta testa di cazzo, imbecille. Cosa che dovresti fare anche tu? Coglione, ma che non sei altro. Fate così? Non c'è motivo, dai, su. Non c'è motivo. Sta a casa perché sta a casa, punto. Vuole stare a casa per proteggere se stesso e i suoi familiari. Non c'è niente di strano. Non è che per così, perché non gliene frega un cazzo, perché sta a casa, dai, su. Allora, chi ci ha fatto divertire oggi, però, un signore che fa, no, quello rock. Morto di fama. No, ragazzi, giù. Mi avete rotto i coglioni. No. Mi avete rotto Alberto, fallo per me, resti. Non è il momento di fare queste cose. Il paese ha altre cose a cui pensare. Non è che possiamo pensare a queste minchiate. Per cui non fare queste sceneggiate adesso. Stai qui, rispondi. Se io sono dannoso in onda, no, ma chi ha detto questo? Io non l'ho detto. Siccome decido io se sei dannoso o no. Punto e basta. Lo decido io. E sicuramente non sei dannoso, punto e basta. Ragazzi, basta con queste polemiche del cazzo, su, dai. Il sindaco di Bosco Reale, si chiama Diplomatico. Io risentirei tutto, avete già sentito un po' in copertina, vai. Ritengo utile inviare questo video messaggio a tutta la cittadinanza di Bosco Reale. Sì. Voglio chiarire bene la situazione riguardo all'emergenza del coronavirus. Dire a tutti voi: non seguite messaggi non istituzionali che stanno girando di giorno in giorno con delle fake news, veramente una nuova idioma, una nuova espressione. Rimangano il minor numero possibile. Di che? Non ci sono stati segnalati casi di sieropositivi qui in questa nostra cittadina. Fate una domanda, la risposta è: dobbiamo stare tutti a casa. È l'unico modo per sconfiggere la diffusione di questo coronavirus. Stare da soli, si può anche uscire per andare a prendersi un caffè, ma purtroppo no, da no. soli. In tutti quanti insieme saremo a casa, più tutti quanti insieme riusciremo a sconfiggere questo coronavirus. Noi siamo qui al lavoro ininterrottamente. Ragazzi, questo è Bosco Reale, un paesone nemmeno troppo piccolo in realtà, perché insomma è un paese di 30.000 abitanti nei dintorni di Napoli, ovviamente, sì, 25-30.000, insomma un paese grosso. 3 volte coronavirus, una volta fake news, invece di fake news ovviamente, però quello ci può stare al limite. Sì, insomma, sempre una follia. Notizie di merda. No, ma la cosa incredibile, lo sai la cosa incredibile qual è? Tutte notizie. E poi ha detto, avete sentito, sieropositivi. Qualcuno nel pomeriggio ha pensato, si può dire sieropositivi? No, non si può dire sieropositivi. perché chiaramente sono positivi al coronavirus, positivi al Covid, non sieropositivi. Sieropositivi sono quelli dell'AIDS e dell'HIV. Ma la cosa incredibile è che, sbirciando un po' oggi pomeriggio nel curriculum di questo sindaco, che si chiama Diplomatico, Antonio Diplomatico Bosco Reale, è un medico. Cioè, questo signore è un medico. Ah, è un medico. Ottimo. E in più leggo ancora: competenze comunicative, lingua madre italiano. E vabbè, d'accordo. Competenze comunicative, sì, anche lì si potrebbe dubitare, però va bene, uno lo mette nel curriculum. Competenze comunicative: buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di attività politica, buona capacità di relazionarsi con l'utenza acquisita durante la mia attività di medico. E ho detto tutto. Adesso più che mai, ma che cazzo ce ne facciamo delle notizie sul traffico, porca di quella troia? Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Io ho letto con molta attenzione da ieri sera, come voi immagino, Alberto e David, la lista dei negozi, degli uffici chiusi, no? Che rimangono chiusi. La cosa incredibile è, a parte che anche questa cosa dei tabaccai la trovo abbastanza assurda, però comunque ci può anche stare, no? I tabaccai forse non fanno solo i tabaccai. Beh, certo. Ieri c'erano delle piccole, anche delle piccole code da prendere le sigarette, un'altra follia allucinante. Ma i negozi di ottica e fotografia, per esempio, cioè mi sembra di capire che sia un po' una chiusura a metà. Per carità, il grosso oggi Milano è una città fantasma, immagino anche Roma. A però, Roma uguale. Sì, però ci sono alcune categorie. C'è un dato che non, in più. Cioè, c'è un dato in più. I centri commerciali non è ancora chiaro se aprono o chiudono sabato e domenica. No, quello chiudono. Saranno chiusi. La Conferenza Esercenti ha chiesto aggiornamenti, perché nel primo decreto dicevano che erano chiusi, nel secondo quella clausola lì è scomparsa e quindi non è ancora chiaro. Per esempio, le tintorie. Boh, ma perché le tintorie devono restare aperte? Le tintorie? Beh, negozi di piccoli animali. Di utilità. Ma ho capito. E negozi di piccoli animali? I negozi di piccoli animali. Cioè, negozi perché di piccoli animali. Cioè, sono tanti i possessori di animali. E ho capito. Tanti, ma quindi se hanno bisogno di prendere del cibo da mangiare per gli animali, che non sono al supermercato. Ma quello si trova al supermercato. Diverse. No, non tutto puoi trovare lì. Se devo comprarmi un cincillà e voglio mangiarmelo vivo come i cinesi, no? Per esempio. Dai su, ma che roba è? Da pazzi. Cioè, la lista io ce l'ho qua davanti. Dettaglio: piccoli animali domestici, una follia. Articoli di profumeria, tolette, igiene personale. Le profumerie aperte. Ma perché le profumerie aperte? Certo. Ma che cazzo è le profumerie aperte? Io, con tutto l'amore per chi vende i profumi, con tutto il sapone, che avrai comprato negli ultimi anni, cioè zero. No, ma quello infatti non mi interessa, quella roba, a me personalmente. Ma però non riesco a capire. Un po' di più, Cruciani. Sì, in un po' di giorni. Più, sì, un po' di ah, più. Ah, molto bene. Articoli igienico-sanitari. Ma che vuol dire? Tutto si trova. Ma serve tutto per limitare. Cioè, voglio dire, sono comunque la gente non è che va in fila in profumeria. Perché se tu guardi, ma perché allora, sono la cosa aperte che le profumerie oggi è Bergamo, piccoli animali, i piccoli animali. Ma sì, d'accordo, certo, magari rivedranno anche piccoli questo. Animali, quello. Il dato è: a Bergamo posti rosso. Finiti nelle camere mortuarie. Le salme vengono portate in chiesa. Non 50 medici contagiati. E lo sappiamo, sì. 50 medici contagiati. Allora, quindi la situazione in Lombardia è terribile. Vabbè, 142 morti in 18 giorni in Valseriana. Come fai a dire 142 morti in 18 giorni. Questo non c'è dubbio. Lo dice la Protezione Civile. 142 morti in 18 giorni in Valseriana. Negare che in Lombardia la situazione sia terribile. Ma i dati vanno contestualizzati. In Lombardia la situazione sei è drammatica, quello è sicuro. Sei l'unico in Italia a dire sta stronzata, no, te ne rendi dire, conto no, o no? Giù un attimo. Non riprendiamo adesso, prima vi faccio sentire un po' di cose. De Magistris, in Lombardia, ragazzi, questo non è un dato opinabile. In Lombardia la situazione è drammatica, appunto, come nel resto d'Italia, peraltro. Sì, in alcune regioni un po' di meno. Però io uso, ma è terribile, io ragazzi, Ma ragazzi, la gente muore a frotte in Lombardia, dai, su. Mamma mia, dai. E non solo gli ottantenni. Ti voglio se. Ma chi stai detto che perde la testa? Stiamo raccontando una cosa. Dici? De Magistris, De Magistris. Senti De Magistris. Tra qualche giorno si sbilanceranno di più, ma io davvero mi auguro che domani come dire, potremmo raccontare la storia che siamo stati infettati da altri e che abbiamo noi contribuito a risolvere l'infezione. Sarebbe una ricostruzione anche della storia del nostro paese, no? Per come è stato narrato per tanti anni. Immaginatevi che sarebbe stato. Certo. Questo virus, invece che partire dalla Lombardia, partire dalla Campania. Il primo decreto legge sarebbe stato schierare l'esercito sul Volturno e sparare a vista ogni meridionale che si permetteva di superare il Volturno. Ecco che arriva De Magistris, che in questo momento ci serve anche una, no, ci serve una parola di una parola conciliante da nord e sud, e dice che se fosse scoppiato al sud, cioè questa, che non è scoppiato in Lombardia. Non è scoppiato in Lombardia, voglio far capire a De Magistris, ma lo sa benissimo, che non è arrivato casomai in Lombardia, ma non è che è scoppiato in Lombardia. Dunque, che c'entra dire questa cosa qua? Che se, cioè, no, ci fosse... lui dice, se in Italia il focolaio fosse stato a Napoli, non usa neanche un paradosso troppo stupido. Dice, se in Italia quella stessa cosa che drammaticamente successe in Lombardia fosse accaduta giù, come avrebbero messo È un pregiudizio, è un pregiudizio, è vittimismo ancora una volta. È razzismo al contrario. Cioè, razzismo al contrario, no, è semplicemente un vittimismo inutile. Dice, ecco, se avesse colpito noi ci saremmo, cioè, se ci fosse stato un focolaio a Caserta, tu dici ci sarebbe stato un razzismo pazzesco. Lui dice avrebbero messo l'esercito per evitare gli spostamenti. Ma che puttanata, non è vero, è una puttanata, dai, la solita puttanata, dai. Sgarbi continua all'assalto ieri sera e stamattina. Partiamo da ieri sera. Muoiono ogni giorno, ogni anno in Italia 80.000 persone per il fumo e noi teniamo aperte le tabaccherie. E questo fa capire che c'è qualcosa che non funziona. È molto più grave il fumo del coronavirus. Stiamo vedendo... c'è qualcosa che non mi convince, continua a non convincermi. Stiamo in queste misure vedendo estreme, fontana che di chiudono treni, anche le tabaccherie. 80.000 persone muoiono di fumo e teniamo aperte le tabaccherie. C'è qualcosa di bizzarro, di originale in questo dire siamo prudenti da una parte e non lo siamo dall'altra. E il cancro da tabacco è un dato oggettivo, documentato. Poi oggi, ancora scatenato, vai. C'è una malattia, ma nessuno, tenuto conto dei tanti casi di cancro ai polmoni e del ricovero per terapia intensiva di chi ha il cancro per fumo, ha pensato di chiudere le tabaccherie. E invece sono aperte le tabaccherie mentre si persegue qualunque comportamento di libertà individuale rispetto a un virus influenzale che non porta alla morte. Non porta alla morte, però, Sgarbi, questo non si può dire che non porta alla morte, perché di fronte alla morte, che in Lombardia è chiara e che non è solamente quella degli ottantenni, non è che non porta alla morte, dai, su. È logico che è iperbolico, Sgarbone. Sì, ma su questo nel non c'è 98% dei casi, se sei sotto i 70 anni, non porta alla morte. Aspetta, è questo che aspetta, doveva aspetta, dire aspetta, aspetta, Sgarbi da un punto di vista aspetta, statistico. Aspetta. E non voglio la paura per il coronavirus. Sono più preoccupato per le morti di cancro. Ecco. Francesco da Milano, vai. Che è un'emergenza, ma in questo caso l'epidemia, anzi la pandemia, dimmi, è un'emergenza mondiale. Dimmi. Buonasera. Dimmi. Senta, no, volevo intervenire per quanto riguarda la difesa. C'è un sondaggio, c'è un sondaggio su qualche social, su Gottardo deve lasciare la trasmissione o no? Addirittura sondaggio per gli ascoltatori. Se vengo insultato gratuitamente, Francesco di nuovo, da Milano, dai, ma no, gratuitamente. Francesco da Milano, dai. Buonasera Cruciani. Dai. Senta, no, volevo intervenire in difesa di Gottardo anche di Sgarbi, adesso sicuramente Parenzo mangerà. Ma su che cosa? Allora, non hanno torto nel dire praticamente c'è qualcosa che non quadra. Sì. Cos'è che non allora, quadra? Spiegami. Allora, se noi abbiamo messo l'emergenza, i tedeschi, che di solito sono più efficienti di noi... Ma infatti adesso stanno aumentando i casi anche sta là. Sta arrivando. Magari adotteranno le nostre stesse disposizioni, non lo sappiamo, vediamo quello che succede. Però, L'America ha chiuso tutti i voli con l'Europa intanto, l'America di Trump, per dirti. Però c'è un problema, guardate la borsa, Allora, se io ritardo, no? Ma il problema, scusami però, amico che chiama, non so il nome, il problema non è il governo però, perché in questo caso, su queste, Francesco, questa qui non era una questione Conte sì, Conte no, perché a chiedere queste misure è stato prima di tutto il governatore della Lega della Lombardia, ma non mi interessa neanche il partito, perché io ho sempre detto che era corretto, quindi non è una questione politica, è una questione sanitaria. Francesco, che vuoi dire? Io vado, Parenzo, mi perdoni, io vado oltre. Governo, prego. Ci sono dei poteri molto più forti, cioè il gioco è molto più forte di quello che uno possa immaginare. Che potere forte è la guerra economica. Allora, due settimane in borsa con queste variazioni. Qualcuno ho capito, ma che vuol dire questa cosa qua? Cioè la gente muore o no? Sì, sono utili queste cose qua. Speriamo di sì, punto e basta. Se la gente muore, poi chi ha provocato tutto questo? Sappiamo che ci sono mille teorie, ma probabilmente è stata anche la casualità, quello che succede in Cina nei mercati, che cazzo ne so. Fermo lì, fermo. Abbiamo detto che si sta facendo un tentativo estremo per bloccare la diffusione a macchia d'olio del contagio. Le norme prevedono che si possono tenere aperti questi locali se ci sono clienti seduti al tavolo e a una distanza di un metro. Nella serata di ieri, nella nottata di ieri, i baretti della zona della Movida a Napoli e in tanti centri storici dei diversi comuni della regione erano gremiti di ragazze e ragazzi uno sull'altro. Bene, ai gestori di questi bar vorrei dire, ma è mai possibile che voi, per guadagnare 100 euro in più, dovete correre il rischio di perdere 10.000 euro fra due settimane? Bene. A Napoli! Ma che c'è da mi sente il cervello? Facciamo capire, che vado mi sente il cervello? Forse andate a capire, vado a stare a casa. Dovete stare a casa, e che facci, ma non capi! Ad assaga! E che cazzo, ma non capi! Ad assaga! Ma non capi! E che cazzo, ad assaga! A Napoli! Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda. Ci infettate anche il tutto, fate schifo, pezzi di merda. Gottardo, io sono un rianimatore e lavoro in una terapia intensiva dove trattiamo solo coronavirus. E volevo avvisarti che il paziente medio che ricoveriamo ha 50-60 anni, visto che sopra i 70 ormai non li prendiamo quasi più, perché non c'è posto, ed è obeso e ipertenso. Fatti due conti. Gottardo, la gente non ti odia, ti disprezza e basta. Figurati se sprecano un sentimento per te. Trincerati nel bunker, oberati dal telelavoro, siamo in trepidante attesa delle 18.35. Chiudessero tutto, toglieteci tutto, ma non la zanzara. Parenzo, maledetto inseminatore folle, datti una calmata. Siamo praticamente a 4 figli, mi pare abbastanza a 44 anni. Basta, fatti un fiocco all'uccello. Basta. Però ecco, senti che bene si sente la radio fatta da casa. Buonanotte ottimo, Fiorellino. Ottimo. Si sarà messo col wifi come al solito. Beh, figurati. Intanto vi devo segnalare che Berlusconi se n'è andato a Nizza. Quando si vede lo spessore dello statista. Tu dici che quando l'Italia è in queste situazioni. Quell'altro era andato a Brindisi, mi sembra di ricordare. Ho spiegato poco fa che lo sto facendo da casa, ragazzi, non perché ho paura. Giù tutte e due, dai ragazzi, basta. Stiamo parlando di Berlusconi, che secondo me, io lo dico con grande, lo dico sommessamente, Berlusconi a Nizza pare che sia, per carità, non è questione il contagio, ormai è praticamente ovunque. Però uno dei leader, uno dei leader, diciamo, dell'opposizione. Ma voglio dire solo questo, voglio dire solo questo. Lo sto facendo da casa. Ma lo visto sappiamo, che David, ma non è un problema. Che io non volevo dare per tutelare la mia moglie che è incinta. Hai capito, brutta testa di cazzo? Siccome ieri hai diffuso questa cosa, perché sei un pagliaccio. Grillino palermitano, dai. Il grillino palermitano, dai. Oggi non se ne esce, ragazzi, eh. Oh, Mefra, ma come sta a fare con chi si la si scegliono come robottani? Vuoi fare finire a tutte loro? Oh, ci volevi te finalmente per porre fine a questa diatriba. Ma non se ne può più, è da giorni si che litigano come due prostitute. Si sciarriano come due buttane. A parte che le prostitute non è che litigano di solito. Comunque, sì, vabbè, è un'espressione. Capita, un'espressione palermitana. Un cazzo con lui, ma lui che faccia quello che vuole. Ma che ne prendi di quello che sta succedendo, Giuseppe? Ma tu capisci che c'è cosa? Amico mio, prima hanno fatto finta di bloccare i voli dalla Cina. Sì. Ci sei, mi segui? Sì, questi sono arrivati da tutte le parti. Ne vennero a infettare e ora ne dicono che hanno mai stare a casa e i piccioli per campare con Nerone. Un signor Conte che hanno chiuso a tutta la casa e siamo tutti in quarantena. Perché è giusto che stare a casa, perché è una cosa pericolosa, Gottardo. Sì. Poi che i posti in terapia intensiva ce ne sono pochi, perché se mangiare i piccioli tutti gli amici parenzo negli anni a venire è pure ora, negli anni che sono passati è pure ora, questo è vero. La cosa è grave, Gottardo, quindi non ci coglione male queste cose. Eh? Dobbiamo stare a casa e dobbiamo rispettare questa cosa. Però, porca miseria buttana, hanno a levare i così pagare i cristiani, ci hanno a dare i piccioli cristiani, se no come campiamo, signor Conte, a chi su ci arriva o pure fa finta carome. Questo non so se a tutti si arriverà, ma insomma in qualche modo il governo a tutti si arriverà, Giuseppe, fino quanti a soldi perdi piccole, tu che sei... i soldi qua turismo non ce n'è più, non arriva più nessuno, l'aeroporto su tutti. Ci sono gli aerei contati all'aeroporto e che facciamo, come vamo a campare, andiamo a mangiare tutti a casa del signor Conte? Tu che fai l'NCC, lavoro qua finito. È tutto fermo, lascia la stare a me, qua paese. Non c'è più niente. È la chiusura fino del a paese. Quando, io me la penso così, se loro non ci aiutano, fino a quando abbiamo i soldi andiamo a fare la spesa con i soldi. Certo. Appena soldi e non abbiamo più, andiamo a certo. pigliare a spiso il sisso senza picciolo, poi così va a finire. Perché vuoti. In Cina l'emergenza è durata 3 mesi, nego signor Conte, o signor Gualtieri e tutti questi coinuti, mi sa pecorino l'avanzella Europa, hanno intenzione di far iniziare 3 mesi a casa. Pensare a Rinni Piccioli, se quattro magnacce, perché questa cosa non deve esistere. Ci hanno cagato la minchia. Stiamo a casa, va bene, ma andando a campare, però. C'è la rabbia della gente. Intanto stiamo a casa. C'è la rabbia della gente, come Grillino, ex Grillino palermitano. Nino da Palermo, ai domiciliari come tutti gli italiani. Grazie a tutte queste minchia che prima facevate dai cinesi, ne facevano a infettare e ora chiude tutte cose. Perché non chiudeva la Lombardia lo stesso giorno che scoppiate il bordello? Perché non la chiudeva lo stesso giorno? Beh, guarda, per l'economia, ora stiamo morendo tutti. Lui deve sperare che qua al sud non viene questa emergenza, perché caspita, non ce n'è. Questo è vero, cominciano a morire cristiani, poi non accianiamo a Roma e succede un buon dialogo. Poi per ora siamo in quarantena e speriamo che Dio ci aiuti. Ma io donna va a dare i piccioli per campare. Nino, tu non hai tutti i torti, perché sicuramente nella fase iniziale qualche minchiata. Quando si faranno i conti? Qualche cazzata all'inizio. Per ora, appena poi finisce l'emergenza, una pochi facciamo che se qualche chiedere. Cazzata c'è stata sicuro, lui ha ragione. Ma come facevo? Ma ancora fino a un anno fa non serviva, ora c'è tutto il caculo di Conte. Ancora perché no, ma io ti do anche ragione, per me le persone possono cambiare in base alle, ma che me ne frega a me di Conte o di quello che ha fatto? Ma ho detto che il governatore della Lombardia ha fatto benissimo, ad esempio. Conte. Sì, ma quello che dice Guardato me ne frega più un cazzo. Guarda, mi dispiace perché ho perso un amico, perché per me è un coglione. Sì, però. Sul piano personale, perché hai detto delle cose private, familiari mie, e sei una testa di cazzo. Quindi per me è il giudizio è vero, di me. Continuiamo a fare la trasmissione. Per me rimani una testa di cazzo umanamente. Ma continuiamo a giocare. Nino, che cosa dici? Non ho capito? Nino? Allora, dico, la devono smettere di litigare tutte e due, perché non è il momento. Comunque le cose private non si dicono, ma ne approfitto per fare gli auguri del nuovo arrivo a Parenzo. Ciao Nino. Saverio, provincia di Chieti. Saverio, vai, dimmi, che c'è? Che è successo? Che è successo? Saverio, dimmi. Non ho capito, Saverio. Questo proibizionismo deve finire, basta. Ma quale proibizionismo? Quale? Qual è il proibizionismo? Che non devi uscire da casa? Per adesso non devi uscire da casa, che cazzo vuoi? Che cosa vuoi? Per farmi una birra con i miei amici. Sì, che fai? Che vuoi fare? Per farmi una birra con i miei amici. Sì, non posso, no, non puoi, non puoi, non puoi. Vai, no. Vai pure, vai. Oggi ci sono stati sette arresti a Roma per gente che voleva fare i cazzi suoi. Sette arresti e 2000 denunce in tutta Italia. Però se vuoi accomodati, ci sono polizia, carabinieri, sono pronte ad accoglierti, certo. Non dico nelle patrie galere. Anche a me mi hanno fermato giustamente oggi, io ero sceso per andare in farmacia e comprare delle cose, mi hanno fermato, poi uno, il carabiniere, mi ha riconosciuto, mi ha chiesto che cosa stavo facendo, giustamente, io ho risposto, fine, non ho potuto stampare farmacia, a Mochina 14 euro, ma che c'entra, questo è un altro problema, tu stai dicendo un'altra cosa, un'altra che vuoi farti una birra con gli amici, sei un imbecille se pensi di volerti fare una birra con gli amici. Fattela, te la farai a casa, beviti a casa una birra, ubriacati a casa, cosa vuoi fare la birra con gli amici? Appunto. Nel mio paesino siamo 100 persone. Beh, lo so, Saverio, cosa vuoi fare? Se vi volete vedere in piazza, a parte che dov'è che vi dovete vedere, ma nemmeno tra di voi vi dovete vedere, che ne sai se tu sei infetto, quell'altro infetto, eccetera. Non vi potete vedere, punto e basta, come te lo devo dire? Non vi potete vedere. Cioè, punto, qual è il problema? Il problema è che perché non siamo sperduti, siamo un piccolo paese, la provincia di Chiesi, siamo sperduti, non abbiamo nulla. Ho capito, nulla. Resti a casa. Resti a casa. Internet, la televisione, internet. Neanche lo sai dove abitiamo noi, internet, la fibra è arrivata l'altro ieri, siamo al 2020, qua non siamo a Roma. Fermo là. Luciani, gli immigrati anche dai supermercati sono spariti ai carrelli, non c'è più nessuno. Finalmente tutto quello che stavamo aspettando per allietarci la quarantena è arrivato. Accesso a Pornhub Premium. Amico mio! Madonna! Te volevo incontrare. 2020, anno bisesto, anno funesto, porta male, perché in 3 mesi io non lo so se ci arrivo, tra 12 mesi non so se ci arrivo a dicembre. Allora, la titolare di una farmacia qui a Milano è incazzata perché sul web è finita una ricevuta da 240 euro, uno scontrino, per 4 mascherine, per l'acquisto di 4 mascherine. Lei dice: prezzo è alto, ma molto vicino al prezzo di costo. Sono introvabili anche per noi, io ho fatto i salti mortali per fare rifornimento, accettando costi fuori mercato. Altri farmacisti hanno scelto di non comprarle, rimanendo in questo modo sprovvisti. Sì, ho capito, però ragazzi, 240 euro per 4 mascherine. Qua tra l'altro è una farmacia dove vado, via Boccaccio, dove vado sempre io qua a Milano. Beh, in qualche modo dovrebbe intervenire lo Stato. No, non è che interviene lo Stato, è che uno non dovrebbe vendere una mascherina a 240 euro, nemmeno comprarla a un prezzo eccessivo. O fare come ha fatto Macron, che le ha sequestrate tutte, e quindi questo è una misura estrema, io credo che però. No, ma non esiste che uno, tra l'altro uno che compra delle mascherine a 240 euro, già là si potrebbe discutere, diciamo, anche sull'acquirente, però la paura, vabbè, d'accordo. Ma 240 euro che cosa le metti in vendita? Non le metti in vendita direttamente? Ne ho comprate 4, una per mia moglie che deve andare a fare delle visite, e quindi una mascherina di quelle, però non quelle da chirurgo, diciamo, no? Quelle serie, che costano 16 euro l'una. Quindi ne ho comprate 4 di quelle, le ho trovate. Per cui. Allora, Ivan da Pesaro. No, capisco sia un problema. Posso dire, senza che si incazzi Parenzo, che Gottardo sta ragione. Ma su che cosa? Non ho capito. Su che cosa? Sul discorso della mortalità del coronavirus nelle fasce d'età. Ragazzi, ma voi sapete che la mortalità in Lombardia è altissima, cioè nettamente. Questo è anche un mistero per alcuni, sì, no, ancora non spiegabile. No, non è un mistero, ma non è un mistero, te lo spiego subito. Ho fatto statistica, te lo posso dire. Vabbè, Ivan, allora dimmi. Il punto è questo: il coronavirus è altamente mortale sopra una certa età, sotto i 40 la mortalità è zero. siete arrivati a dire che è sotto i 40. Prima dicevate sotto i 60, sotto i 70. Sotto i 70, sotto i 70 è del 2%. Scusa, la statistica è una cosa, poi ci sono gli scienziati. Io spero che lei, almeno lei, l'abbia letta l'intervista al professor Vineis su Repubblica. Dice solo una cosa: di questo virus ancora non sappiamo nulla. Sì, ma si legga lì, io non gliela voglio leggere tutta. Sulla distribuzione non riescono a fare anagrafica. Delle casistiche. No, ma sulla distribuzione dell'età dei morti la puoi fare la statistica. Sono morti, non si fermano più, hanno una carta d'identità e stabilisci che il 98% dei morti in Italia e soprattutto in Lombardia ha più di 70 anni. No, mamma mia. È più basso, Lombardia è più basso. No, comunque Ivan, dimmi. Amico mio, allora guarda, Ivan, guarda dimmi. Vabbè, ma anche fosse così, qual è il problema? Non è questo il problema, Ivan, dimmi. No, allora noi abbiamo una mortalità più alta. Fammi sentire Ivan. Fammi sentire Ivan. Allora, il punto è questo. Questo è un virus altamente pericoloso per immunodepressi e ultra settantenni, il che significa non solo, che se noi non prendiamo solo. Noi, ma io ho detto altamente posso finire altamente pericoloso per queste persone. Dito, ragazzi, ma c'è gente ricoverata e intubata. Gente ricoverata e intubata. Di 40 anni. Allora, posso finire? Ho detto altamente pericoloso per queste persone. Ma ho capito, persone, d'accordo, però dai, dimmi, finisci, dai. Allora, finisco. Su quelle persone lì vanno, loro sì, sigillati in casa, assolutamente portati via. Gli altri si girano? E gli altri, allora, si fa così. Sotto i 40 così. Fanno quel cazzo che vogliono, ma perché no, non gli no. fa ma possono sì. portarlo, lo possono ma portare ma che ne sai, persone lo possono portare agli altri, che cazzo dici, ma lo no, possono perché se le persone scusami. Pericolose tu le hai chiuse come stiamo facendo, ma sono, con ma quelle non sono pericolose. Scusa, sono pericolose per se stesse, scusami, ma avrà più valore quello che dice l'epidemiologo, no? Allora ti dico solo due passaggi. Covid-19 è un fenomeno infettivo interamente nuovo, un virus che arriva dai pipistrelli attraverso catene causali che conosciamo malissimo. Secondo punto, non riescono a capire perché in Cina le persone infettate, dice lui, siano raddoppiate ogni 5 giorni, in Lombardia si è avuto un raddoppio più rapido ogni 2-3 giorni. E te lo spiega Angelo Borrelli. Se anche i medici non l'hanno capito, perché l'avete capito voi? Angelo Borrelli su Repubblica.it ti dice le vittime in un giorno sono state 188, il 98% ha più di 60 anni, il 67% delle vittime aveva almeno una patologia grave pregressa, è per quello in Cina no, sono più giovani. Non ha spiegato quello che dicevamo in prima. In Cina sono più giovani sì, e quindi muoiono meno. Sì, ma non lascia perdere la morte. In Lombardia il 67% ha una patologia pregressa delle vittime che probabilmente in Cina non aveva. Daniele si sta parlando del contagio. Vineis su Repubblica parla non delle morti, da Modena, del contagio. Daniele da Modena. Vai, facciamo parlare. Dimmi Daniele. Bene. Volevo parlare del coronavirus, tanto per cambiare, no? Dai. Mi stavo parlando con un mio collega stamattina, che praticamente per portare fuori il cane ha dovuto scrivere un'altra certificazione così sui bisogni fisiologici del cane, dell'animale. Bene. Sì, secondo me è inutile, però ci sta perché non è chiaro se uno può fare una passeggiata, se non può fare una passeggiata. Diciamo di sì in teoria, però magari qualcuno ti ferma e dice che stai a fare fuori se ti siedi su una panchina, è successo. Appunto, il punto è quello. Allora, ma uno non va fuori a sedersi su una panchina, questo è il punto. Perché devi andare fuori a sederti su una panchina? No, ma non devo andare fuori a sedere su una panchina. Non ci vai, stai a casa, punto e basta, non rompi i coglioni. No. Il punto è, sì, io sono un mistress, cioè sono un padrone, no? Sì. E c'ho la mia schiava. Sì. Io posso fare la liberatoria che ho scritto bisogni fisiologici della schiava e portare fuori la schiena al guinzaglio? Daniele, capisco la tua ironia, capisco dove vuoi arrivare, però credo di no. Credo che le orge, i rapporti diciamo sessuali di un certo tipo, di qualsiasi tipo, multipli o comunque, non se sono... lei fa lo schiavo, mi porti a casa la spesa, ad esempio. Sia utile. No, però, Daniele, se lei fa lo schiavo, no, venga qui schiavo. A portarmi la spesa. Le do un suggerimento. Andando dalla mistress, passi dal tabaccaio e quando lo ferma il carabinieri dice: guardi, io fumo, siccome i tabaccai sono aperti posso prendermi le sigarette perché è un bisogno impellente secondo la normativa, e quindi si compra un pacchetto di sigarette alla volta. In realtà per le sigarette hanno fatto la multa il mio collega, quindi no. No, le sigarette come fanno a fare la multa? Sono aperti da bancari, che parliamo? Cioè, che faccia ricorso anche le 6, dopo le 6 fino alle 6 e mezza lavoro. Vabbè, Massimo da Fermo, vai Massimo. Pronto? Dimmi. Buonasera. Dimmi Massimo. Non immaginavo mai che mi sarei ridotto da ragione a Sgarbi. Su che cosa? Però... Anche tu negazionista, anche tu della corrente negazionista, diciamo. Ah, io sono tra i più estremisti dei negazionisti. Sì, vabbè, sono quelli che poi magari si trovano sul letto, non te lo auguro, sul letto steso intubato, magari. Speriamo di no. Speriamo di no. Però magari dice oddio, però quanti poi... Quanti anni ha Massimo? Facciamo lo screening. 68 anni. Oh, benissimo, quindi siamo perfettamente in linea. Ha avuto un infarto, qualche problema alle coronarie, sovrappeso, fumatore? No, non gli dire. Mi dispiace per te. Ma dunque, non gli dire che se la può cavare sicuramente, che non deve temere nulla, perché non è così. Chi è il cretino? A 68 anni inizia a essere un problema, eh? Vabbè, Massimo, che vuoi? Io non ho ancora capito che cosa vuoi. Dai ragione, Sgarbi. Io dico che 30.000 soldati americani, queste sono le cose di cui bisognerebbe parlare. Tu sei parlare. Preoccupato in tutto questo casino, sei preoccupato da una cosa che tu puoi facilmente trovare su internet, la spiegazione dell'arrivo, pare che arrivino non so quando, 20-30.000 soldati americani. È un'esercitazione della NATO. Piena di tank. C'è già un'esercitazione di tank. È un'esercitazione. Parlate una volta, che io so solo. Questo è un cretino totale. Massimo da fermo. Allora, Massimo, è un'esercitazione della NATO questa cosa dei soldati americani. Vabbè, la vuoi capire o no? Ma 30.000 è un'esercitazione della NATO? Sì, è un'esercitazione. Cosa vorrebbero fare secondo lei? Ma vogliamo parlare cose serie un attimo. Ora non ho capito. Una volta che arrivano 30.000 soldati americani, dunque in Europa peraltro, non in Italia. Già dunque... programmata da un sacco di tempo. Esatto. Mica era un contingente russo, era un contingente americano, quella è gente che pace di tutto. Ma che vuol dire? Cosa c'entra col coronavirus? Che vuol dire? Cosa c'entra col coronavirus, cretino? Cosa c'entra il coronavirus con quello che sta succedendo? Chiedo io. Cioè, perché per te è un'influenza normale, una piccola influenza per te. Lei ha il monavirus. E tutte le influenze invece, delle stagioni fanno qualche migliaio di morti. Sì, questa è vero. Volta se fa un conto degli morti proprio da Beccamò. Sai che mi ricorda questo? Vabbè. Ti ricordi quel deputato della Lega? Quel vecchio deputato della Lega? Isidori. Senatore Massimo, Isidori. Lo conosci Isidori? L'ex senatore della Lega? No. È peccato perché siete quasi gemelli. Può darsi che depone a mio favore, Non lo so. Però scusami Massimo, voglio capire una cosa. Tu sei preoccupato in tutto questo casino dall'arrivo di 30.000 soldati americani. Cioè ti è venuto in mente... Mi sembra una notizia molto più corposa. Dove l'hai letta? Sull'internet? Dove l'hai letta? L'ho sentita per radio. L'hai sentita per radio dove? Per caso, dove così. L'hai sentita? Qui alla Zanzara, dove l'hai sentita? Non mi ricordo, non c'ho nessun dubbio. Le sue fonti Massimo mi descrive la sua giornata di oggi, per cortesia. Cioè, lei si alza questa mattina a che ora? Cosa ha fatto mi oggi? Sta fumando un sigaro. Beh, questo qua va bene. Dentro casa. Antivirus, sì. Dentro casa. Cosa hai fatto durante la giornata? Cosa hai fatto? È uscito. Niente. Eh beh, certo. Ma lavori, non lavori, sei in pensione. Sei in pensione tu. Già sto fuori legge per questo. Poi sei in pensione, che hai fatto? È certo che sto in pensione. Stia dentro casa, mi raccomando, che la sua età è defumatore. Ma chi è quello che me parla, che ci parla sopra? Il cretino. Gottardo si chiama, Gottardo. Porca miseria, Gottardo. Hai bevuto, Massimo? Hai bevuto qualche cosa? No. Usi alcol? Sono quasi astemio, pressoché astemio. Usi sostanze stupefacenti? Usi sostanze stupefacenti? Guarda, l'unica droga mia è la figa, Grugiani. Mi dispiace che con te non posso parlare mai di figa, perché c'ho sempre qualcos'altro di cui interloquire. Puoi parlare di figa? Come te la procuri la figa? Hai una compagna? Vai a puttane? Che fai? Guarda, ultimamente sto raccogliendo degli animali le chiamano handicappate. Come le handicappate? Ti assicuro che sono diversamente abilisti. No, ma chi sono questi? Una cosa fantastica. Abbia pazienza, abbia pazienza. Le, no, abbia pazienza, spregevole oltre che illegale. Quello che lei sta dicendo, ma chi sono? Io mi